c'è un attacco a quelli che sono i fatti storici che ci sono stati in tutta l'area in questione, cioè l'area giuliana e dalmata, dove ci sono stati, dopo la prima guerra mondiale, dei susseguirsi di violenze che hanno finito anche per dare una caratterizzazione al fascismo italiano, ma dove poi questo genere di violenze è diventato sistematico, quotidiano, in termini morali, ma anche costrittivi, polizieschi durante tutto il regime fascista. Poi quando i tedeschi nel marzo del 1941, marzo-aprile del 1941, hanno invaso la Jugoslavia e la Grecia, c'è stato da parte loro l'affidare una gestione di praticamente di quasi tutta la costa balcanica, ma anche di quella che l'Italia ha subito inglobato al Regno d'Italia come provincia di Lubiana, dove sono avvenute violenze inenarrabili, proprio crimini di guerra continuati verso i civili. E se già dall'inizio della guerra erano stati creati dei campi di internamento per tutti gli italiani che il regime fascista considerava a rischio, con l'occupazione di quei territori c'è stato un assolutamente notevole ampliamento di veri e propri campi di concentramento dove venivano deportate queste persone. Teniamo conto che un quarto della popolazione della città di Lubiana è stato deportato, che ci sono stati posti come l'isola di Arbe che sono diventati dei grandi campi di concentramento dove sono morte di stenti migliaia di persone, e quindi c'è stata questa violenza sistematica proprio con l'uccisione per rappresaglia di civili, di paesi bruciati e bombardati. Sono fenomeni che sono alla base poi di quello che è successo nel settembre del 1943, quando l'esercito italiano è stato lasciato allo sfascio dei generali e l'Italia è stata invasa dalla Wehrmacht e dalle SS. Quando in quel caos dei giorni di battaglia in cui i tedeschi occupavano tutte le zone in precedenza pertinenze dell'occupazione italiana, la guerriglia jugoslava ha potuto fare atti di vendetta verso i fascisti che avevano fino ad allora dominato quei territori jugoslava, ma anche di persone di lingua italiana che partecipavano alla resistenza. Insomma, sono state varie ritorsioni che non hanno raggiunto più di tanto persone, si parla di poche decine di persone che sono state eliminate sommariamente in quel modo dall'insurrezione che c'è stata in quei territori. Dopodiché i tedeschi hanno portato il loro ordine con diverse personalità del fascismo. Teniamo conto che quelle terre in quel periodo non facevano parte della Repubblica Sociale Italiana, ma erano governate da dei Gauleiter, da dei governatori del Terzo Reich, quindi erano terre incorporate al Terzo Reich, per cui erano collaborazionisti fuori d'Italia, erano praticamente questi fascisti che collaboravano con i tedeschi a cercare di mantenere l'ordine in quelle terre. E tra queste attività c'è stata da subito, già dalla fine autunno del 1943, l'impegno a ritrovare i corpi delle persone che erano state eliminate durante l'insurrezione antifascista appunto del settembre-ottobre del 1943. C'è stata una repressione gestita appunto dalle truppe tedesche e da questi collaborazionisti in un territorio appunto che non era più italiano, e dall'inizio del 1945 la crescita della guerriglia titina in quelle terre, che non era solamente una guerriglia slava, ma c'erano dentro anche tanti italiani, ha portato di nuovo a una resa dei conti finale. Quindi è stato un susseguirsi di momenti di conflitto molto aspro, dove le parti che si combattevano non erano parti necessariamente qualificabili come italiane, né da una parte né dall'altra, e alla fine c'è stato un inglobamento di ampie terre, che così anche il destino di Trieste non era ben chiaro, c'è stato un inglobamento di territori all'interno della Repubblica Jugoslava, con una parte di questi territori rimasta in dubbio proprio tra le potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale, in dubbio a chi dovessero essere assegnate, un dubbio che è stato sciolto solamente nel 1955, ma nel frattempo anche in seguito a un attentato che c'era stato sul mare, e poi a vari provvedimenti proprio anche di incarceramento di quelle che potevano essere state sia elementi sospetti di fascismo, sia grandi proprietari agrari che grazie al fascismo avevano prosperato, sia di elementi proprio di quadri istituzionali di quello che era stato lo Stato italiano, che venivano visti come elementi sospetti o comunque ostili dalle autorità jugoslave. Per cui c'è stato un incarceramento, a volte anche un'eliminazione di diverse di queste persone, e tutto questo ha portato poi tra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50 a un esodo di una parte considerevole della popolazione di lingua italiana, tutta l'area istriana, e anche comunque violenze c'erano state anche in aree dove la popolazione era completamente slava. Ad esempio l'autoproclamata dall'Italia provincia di Lubiana non aveva minoranze italiane di sorta, c'era stata anche lì un tentativo di applicare quell'italianizzazione forzata che era stata fatta in tutta quell'area etnicamente mista che aveva caratterizzato le province asburgiche in precedenza, quindi parliamo anche di Trieste, di Gorizia, oltre che dell'Istria o della città di Zara. Quindi c'erano stati interventi pesanti per un intero ventennio. Alla fine appunto del regno di fatto del Regno d'Italia, cioè l'8 settembre del 43 e nella primavera del 1945, c'è stata una generalizzata resa dei conti rispetto a tutte queste violenze. Ecco, questo è tutto ciò che fa da sfondo alla vicenda delle foibe, che è stata enormemente gonfiata rispetto alla sua portata. Ci sono stati molti momenti di violenza che non rimandano necessariamente alle foibe, anche quando sono venuti da parte titina. Ecco, ma tutte queste cose vengono rimosse quando si parla di questo giorno della memoria, che rivendica una memoria italiana, quando in realtà si parla essenzialmente di una memoria. Di una memoria di una fascistizzazione di tutto uno spazio geografico che è stata qualcosa di estremamente violento, mentre viene presentata come una normale presenza di una italianità che in realtà italianità non era, ma era fascismo a tutti i livelli. C'è la rimozione proprio di questo tipo di conflitti quando in questa istituzione del giorno e anche nei musei, come quello recentemente promosso dal ministro della cultura San Giuliano, che cerca di presentare una memoria distorta di quei fatti. Questo giorno, appunto, nello specifico sembra essere nato un po' come una concessione, una sorta di bilanciamento del 25 aprile, però la storia non si fa in questo modo. Certo, c'è bisogno di una complessità che va raccontata, mentre con queste scelte che sono state fatte già da tempo, che gli storici hanno sempre cercato poi di riportare a una dimensione corretta, ma da parte dei vari livelli istituzionali, ma soprattutto poi col governo attuale, vengono portati a presentare proprio dei racconti assolutamente poco credibili. Abbiamo in certe zone del Friuli anche, vedi, comune di Spilimberto, anche le reazioni ai martiri delle foibe, dove sono inseriti anche elenchi di persone che sarebbero state infoibate, dove ci si mette dentro anche un partigiano ucciso dall'SS oppure un avvocato fascista morto nel 1982, che non è mai stato ucciso da nessuno, ma che era stato appunto uno dei promotori di questa propaganda post-fascista sulle foibe, e che così nell'ignoranza di chi ha promosso quel chip è stato inserito anche tra i cosiddetti infoibati.